Radio 24 Reportage. Binario 21, la vergogna italiana, di Adriana Fracchia. Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. È in relazione con la conquista dell'impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. A cavallo tra l'estate e l'autunno del 1938 il fascismo promulgò in Italia le leggi antiebraiche, leggi che escludevano gli ebrei dall'esercizio delle professioni, dalla scuola e dalle università e limitavano il diritto di proprietà. Poi venne la Seconda Guerra Mondiale, le deportazioni e lo sterminio ad opera dei nazifascisti. Oltre 9.000 uomini, donne, bambini e ebrei italiani furono barbaramente uccisi nei lager. Anche da Milano, tra il 1943 e il 1945, vennero deportati, caricati come bestie su vagoni merce, un migliaio di ebrei italiani con l'unica colpa di essere nati. I vagoni partivano dal binario 21, situato nel ventre della stazione centrale, nei sotterranei, dove si trovava quello che fino a quel momento era stato un magazzino di smistamento della posta. Durante la guerra il binario 21 si trasformò nel girone infernale dei deportati. Destinazione: i campi di sterminio nazisti di Auschwitz-Birkenau o di Bergen-Belsen, ma anche i campi di transito di Bolzano e Fossoli. Da quello stesso binario partirono anche convogli carichi di deportati politici. Dimenticato fino a metà degli anni 90, ora il binario 21 è diventato il simbolo non solo milanese della deportazione ebraica, un luogo della memoria ma anche di studio e di documentazione, un monito per le generazioni future contro il razzismo e la discriminazione. Ora il binario 21 diventa il memoriale della Shoah. Il 30 gennaio del 1944 dal binario 21 della stazione centrale di Milano vennero caricati su vagoni bestiame cittadini italiani di religione ebraica di ogni età e condizione sociale. All'alba di una grigia e gelida domenica invernale più di 600 persone attraversarono la città partendo dal carcere di San Vittore su camion telati per raggiungere i sotterranei della stazione con l'accesso da via Ferrante a Porti. Stipati sui vagoni viaggiarono per una settimana in condizioni disumane. All'arrivo ad Auschwitz la successiva domenica 6 febbraio circa 500 di loro vennero selezionati per l'eliminazione. Furono gasati e bruciati dopo poche ore dall'arrivo. Su quel treno c'erano più di 40 bambini da 1 a 14 anni. Tra loro anche Liliana Segre. Aveva 13 anni. È una dei pochissimi sopravvissuti, solo 22 su circa 600 deportati. Mi ricordo quando uno dei tanti camion che uscivano per portare più di 600 persone alla stazione, io che ero in fondo al camion ho visto per un attimo, per un secondo, la mia casa amata, quella che non avrei mai più rivisto. Mi ricordo i pensieri, i flash di quel momento, che erano un condensato della mia vita precedente, che era breve perché avevo 13 anni, e che erano passati in un minuto, il tempo forse meno che c'era voluto per il camion per attraversare l'incrocio. E quando in una orgia di latrati, di fischi, di comandi, di urli, siamo stati tirati giù con una violenza inaudita da quel camion e ci siamo trovati nei sotterranei della stazione, sotterranei sconosciuti a tutti noi deportati. Era un momento di violenza morale e fisica inaudita. su gruppi di persone, centinaia di persone che erano colpevoli solo di essere nate. Non avevano nessun'altra colpa di essere lì e di essere vessati, imprigionati, umiliati, picchiati con quella violenza che è stata impiegata per spingerci su quei vagoni. E la sensazione poi di essere al buio dentro il vagone e di qualcuno, un uomo come te, che in modo del tutto indifferente sigilla da fuori quel vagone, lo chiude. E non importa se dentro ci sono bambini che piangono, vecchi morenti, un'umanità pressata uno sull'altro. Quando per la prima volta sono tornata là sotto, beh, devo dire che ho avuto uno shock fortissimo, perché i luoghi sono uguali, il binario è uguale, il vagone è simile, ma c'è adesso un silenzio, un vuoto, che è quello che è giusto che ci sia, perché quelle persone che hanno affollato quel binario, sia i carnefici che le vittime, sono morti quasi tutti. È per quello che io sono obbligata a ricordare, per quello che cerco sempre di trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quello che è stato. In occasione della giornata della memoria viene finalmente inaugurato il memoriale della Shoah. Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, nata nel 2007, è il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. La comunità ebraica milanese chiese a un cattolico come me di essere presidente di una fondazione, peraltro voluta dal Cardinale Martini, peraltro promossa anche dalla comunità di Sant'Egidio, oltre all'Associazione Figli della Shoah, e anche possibile grazie al contributo di tanti donatori privati e all'impegno delle istituzioni. Ci abbiamo messo alcuni anni, questa è un'inaugurazione del cuore del memoriale, poi dovremo lavorare ancora, però è importante che lo si faccia adesso, lo si faccia in un periodo nel quale sulla rete, negli scritti, si tende a negare quello che è successo, affiorano nuove intolleranze nei confronti dei diversi, nuove forme di razzismo, nuovi conati di antisemitismo. Io trovo che noi abbiamo messo come scritta davanti all'ingresso memoriale indifferenza, credo che dobbiamo combattere tutti quella zona grigia che tende a scolorare con il tempo le responsabilità e ad arrivare addirittura al paradosso che sono i carnefici che raccontano la storia anziché le vittime. Quanto è stato e perché è stato così difficile trovare i finanziamenti per portare a termine i lavori? Beh, intanto perché gli enti locali ovviamente sono in difficoltà e questo non è una novità. Ci sono stati dei finanziamenti privati consistenti, il progetto all'inizio era ovviamente ambizioso, i lavori sono estesi. Noi ovviamente pensiamo poi dopo di arricchire, oltre alla parte iniziale dove ci sono le mostre, oltre al luogo di meditazione, anche l'auditorium e la libreria. Ci saranno poi gli uffici che accoglieranno per esempio il CEDEC, il Centro di Documentazione Ebraica, e qui credo che sarà da adesso in poi una sfilata di scuole che è giusto che vengano, che guardino e capiscano che questo è uno dei luoghi originali della Shoah in Europa. Parigi aveva il velodrome non c'è più, però insomma non esiste un luogo per cui si può capire che qualcosa accade nella vita di una città all'improvviso, come accadde nel 1944, nella totale ignoranza e indifferenza della cittadinanza, cittadini italiani, ebrei e non solo ebrei, perché da qui sono stati deportati prigionieri politici, insomma, possa accadere una cosa che è rimasta sepolta per tanti anni. Soltanto a metà degli anni 90 si individuò, grazie al lavoro di alcuni storici, questo deposito, che era un deposito delle ferrovie, un deposito delle poste, come luogo nel quale cominciarono a morire tanti nostri concittadini. E quindi il dovere della nostra memoria è un modo anche per avere una memoria attiva, non retorica, non reticente, e anche per trasmettere meglio i valori alle generazioni future. Senza memoria non c'è comunità, senza memoria non c'è civiltà, e senza memoria siamo tutti indirettamente complici. dunque a lungo abbandonata è divenuta una zona fatiscente della stazione. Dopo alcune ipotesi di recupero, tra cui anche quella di un supermercato, nel 2009 sono iniziati i lavori per l'ambizioso progetto realizzato dallo studio Morpurgo De Curtis Architetti Associati, che ora vede la sua prima concretizzazione appunto nel cuore del memoriale. Una struttura che occuperà, nel totale rispetto della morfologia originaria, una superficie di circa 7.000 metri quadri. L'architetto Guido Morpurgo. È uno spazio che va esperito, cioè c'è un tema di esperienza personale che è emozionante, insomma, perché davvero ci riporta a, è come se fosse una specie di macchina del tempo che ogni 5 minuti ci fa ricordare che cosa succedeva effettivamente all'interno di queste aree. A me interessa molto che il pubblico percepisca l'idea che questo non sia semplicemente un luogo del ricordo, ma che sia uno spazio per rielaborare questa memoria e sulla base di questa memoria costruire un luogo di dialogo sui temi del presente. Ha raccontato un superstite della Shoah Nedofiano: gli italiani parlano con disinvoltura delle colpe naziste e non parlano delle colpe italiane. Io sono stato denunciato da italiani, imprigionato da italiani, messo in un campo di italiani e poi consegnato ai tedeschi per andare a morire. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.